My father's name was Elijah, and my name is Ragnar Pizer. Lunedì 16 febbraio, siete sulle frequenze di Controradio e questa è Ragnar Pizer. 0557399933 il nostro numero di telefono, info.ragnarpizer@gmail.com la nostra mail, ragnarpizer.net il sito. Vi scaricate tutte le vecchie puntate, i mix, le release, i beat tape, tutto. Tommy è già in posizione, Andrea, lo lasciamo andare e noi ci sentiamo più tardi. keep searching till I find mine. I need a sweet little girl to come and ease this old man. Please, baby, come on, put your little hand in mine. Then we could have a love that's so divine. We could leave all our troubles behind. 'Cause true love's too hard to find. True love is too hard to find. True love is too hard to find. But I'm gonna keep searching till I find one. Return to claim the pyramid. Partying on the mothership. I am the mothership connection. Get down in 3D. Light year groove. Well, all right. You hear the noise? Ain't nobody but me and the boy. Get down. Hit it, fellas. Put a glide in your stride and a dip in your hip and come on to the mothership. Loose boot, doing the bump. Hustle on over here. Yo yo. Che comincia. Io rido perché stare di ridere. No, si diceva che giovedì 19, che fra le altre cose è l'ultimo di Carnevale, al NOF China Dance ai confini dell'universo, chi ci sarà? Chi ci sarà a suonare? Questo ragazzo che ride. Mi trema già le gambe. Ehi, Biga, Tamborrino e Mirko Rubegni. Ehi, ecco. La sciambola garantita. Ehi, lascia perdere. Ehi, Sambodromo. Ehi, Sambuhodromo. Poi. Quindi, al NOF che è in Borgo San Frediano. In Borgo San Frediano. Biga Tamborrino, Marco Rubegni, la festa di Carnevale. Mirko Rubegni, Murco Frubegni. Murco Frubegni. E, che storia è? È buona. Il Rubegni viene direttamente dalla Val di Chiana. Val di Chiana, sì, quindi sì. Lecchiana Dance, no China Dance. No, Lecchiana Dance, giovedì. Lecchiana Dance. E poi il Tamborino dalla Cina. Che sono il Tamborino? Claro, direttamente da Pechino. E sottoscritto da... dall'oltre fucking tomba. Allai. No, sei. Mentre se ci avete ancora la bambola, il giorno dopo, a.k.a. venerdì 20, Inner City Jungle torna con un'altra super serata nel nome della Drum and Bass. Della Drum and Bass. Di qualità. Dopo la super serata con Bonnot torneranno in console i DJ fiorentini stracarichi di vinili per farvi muovere il beep a suoni di bassi. A suoni di bass! A suoni bass. Di bass! Sì, quindi sì. Inutile dire Inner City Jungle, Scasso, Sisma, Ivan Villa, BRH e Nuclear Child. Hey. Quindi... Tuma. Jungle, Gold, Inner City Jungle, sì. Elastica Records. Ingresso 3 euro, il tutto, non l'ho detto dove. Ingresso 3 euro, no, tessere. All'ex cargo che si chiama adesso? No, vecchio, al Full Music. Scusami, al Full Music, all'ex cargo c'era un'altra serata. All'ex cargo c'è un'altra roba. C'è un'altra roba, che ve la dico dopo forse. La diciamo dopo, se non ci si confonde. Così non ci si confonde. Quindi al Full Music, via di, in, all'inizio di Via Baracca. Doppia H. Talib Chiquin Kweli Kweli, I can't say it, that's why. Okay, ready? Watch. Yeah, you pronounce my name? Bali. Any questions? I bring many blessings with my man High Tech, and he from the Natty. Bali. We make the sky crack, feel the fly trap. Get your hands up like a hijack, fists in the air. Bali. Keep them there like natural mystic or smoke when the spliff's lit. It's a revolutionary Bali. Word. They ask me what I'm writing for. I'm writing to show you what we're fighting for. Say Talib and Talib. Bali. If it's hard, try spelling it phonetically. If not, then just let it be like Nina Simone. You probably don't listen, B. Even when we suffer losses, I count the victory. Sometimes it's far in between. I'm sad to say you got my brain crowded like sunset on a Saturday. I know my son wept cause his dad's away. Stop crying, be strong for your mama is what I had to say to my little man named Imani. Start the party, my crew hot. Feel these two shots like the blast from a double barrel shot. It's got to be your man High Tech and Kweli who make you rock the body. Start the party, my crew hot. Feel these two shots like the blast from a double barrel shot. yeah. It's got to be yeah. A man hot track yeah. Quietly, I remember when it all started. Back in the day when me and mom first partied yeah. High tech from the beginning, I stayed advanced yeah. A young chameleon, adapt to any circumstance. Peak game yeah. Nigga, never been a lazy nigga. Stayed on my hustle, concentrate to get the paper bigger. Stay focused, my other cats stay hopeless. My niggas stay high, I stay lower. Stacking my chips to get a full push. This shit ain't over. Nope. Going for the gusto, keep getting that provo. It's high tech, on the track like Flojo. Bet you ain't even know I had flow though. Yo, make you rock your body, start the party. My crew hot, feel these two shots like the blast from a double barrel shot. It's got to be your man hot tech. You got to be. You got to be. Attention is undivided. Live guys and crime know how to side it. Look, them niggas shining. News report, no one can find ain't it. Ain't no surprise where the fun's at. The tons of hit. Panic or flinch. Get clapped, can't stand to get pinched. Thought he used his head, but he snitched. Fact look, snatch up, duct tape. Him and his man and his bitch. $800,000, damn it, we rich. Find dead, decomposed corpse. Stallion horse head in your whip. Tote heist, 20th century Glock. Guns with clip. Run your shit. Funds and bricks, the tons of. Thank you. Senti che stamburate. Senti che suoni, eh? Ci eravamo scordati la volta scorsa di dire di questo videocast. Senti che parola ricercata uso. Di questo videocast, ovvero la ripresa della serata che è andata in streaming dell'ultimo Killabros, che è stata domenica, non questa ma la scorsa. Due domeniche fa, esatto, mm-hmm. Non ieri ma la scorsa. E che era la numero 31 ed ha visto tre colossi, si può dire colossi? È stato il super Back in the Days. Back in the Days, tre DJ di spessore fiorentino, vecchia scuola, ovvero Luca Guerra, a.k.a. Freak the Funk, Jacopo Bundu e Pise. Quindi io consiglio vivamente di andare a vedervela o barra ascoltarvela, sono, vi dico subito che sono 4 ore e mezzo di serata, però insomma ne vale la pena, voi buttatela giù, cioè non vi dico di guardarvi 4 ore e mezzo della gente alla console, però insomma dategli play, buttatela giù in tendina, e ascoltatela perché ne vale veramente la pena, super selezioni. Per cercarla potete andare a cercare la pagina Facebook di Killabros TV, oppure andate sul loro canale Bamboozer, non vi sto a dire cioè qual è, comunque cercatevi Luca Guerra, Jacopo Bundu, Pise, Killabros TV su Google. Fate su prima Google, sì. Che io vi dico che vi stia a dire l'indirizzo con tutti i numeri. A proposito di Killabros, con un paio di settimane d'anticipo vi dico che il 28, sabato 28, quindi non questo che viene ma quello della settimana prossima, ci sarà il compleanno di Killabros TV, che compie 2 anni, alla chiesa sconsacrata ex collegio La Querce, e per adesso non sappiamo chi ci sarà a suonare. Comunque insomma, aleggia il mistero. Se fanno 2 anni, quindi insomma ci saranno le bombe. Quindi auguri in anticipo a Killabros TV e rimanete connessi con noi e con la pagina Facebook di Killabros TV, almeno scoprite chi ci sarà. Ricordatevi sempre che la domenica al Jazz Club di Borgo Pinti a Firenze c'è Yes We Jam. Yes. Tutte le domeniche 1000 lemmi con musicisti, ospiti diversi a sorpresa e non. Purtroppo non siamo mai in grado di dirvi chi ci sarà la domenica prossima perché 1000 lemmi di lunedì purtroppo. Sì, cioè, no, ma è che di che 1000 lemmi. Al massimo mi si dice chi c'è stato ieri. Infatti, 1000 lemmi poi magari lo dice tipo un giorno prima, quindi. Chi questo sabato si troverà a Roma potrà venirci a sentire a me e Tommy sotto le vesti di Schoolboy Sound, assieme a Cool Runnings, chiaramente, che ci ospitano al 360 di San Lorenzo. Au. Questo è Biga e noi ci sentiamo più tardi. Tremendo guaguancó, guaguancó. mulata voy a comprarte. Después de un lechón muy bueno, un guanajo y el relleno, eso queda de tu parte. Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena. Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena. Complementando al guanajo con platanitos tostones, avellanas y turrones y yuca con mojo de ajo. Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena. Vamos. morena. Negro chombo va a cantar pa' que venga su morena. El eco de mi canto se lo lleva el Magdalena. Negro chombo va a cantar pa' que venga su morena. Ya llegó el amanecer, el día me espera. Allora rapidamente poi facciamo andare Duccio. Volevo segnalarvi che sulla pagina Mixcloud di Soul Cool Records, che altre volte mi sembra di aver nominato, hanno postato praticamente tutta la serie super classica di mix di DJ Muro, King of Digging. Quindi ve li trovate proprio tutti da ascoltare, volume 1, 2, 3, 4 e il 5 insieme a Lord Finesse, che non ho sentito, ma insomma, che te lo dia a fare. Spiega a questi signori chi è DJ Muro. DJ Muro, vabbè, DJ super storico giapponese, e che altro c'è da dire di Muro? È uno che ho sentito suonare qualsiasi cosa e sempre le bombe. Fece un mix di breaks reggae, bellissimo, poi ne ha fatte uno di roba hawaiana, super, non lo so, penso uno di quelli proprio che fa quello che gli pare sui giradischi. E dice poi comunque Muro, ti diciamo che tipo sono a mixtape, quante tracce suona, tipo tiene una traccia quanti secondi, tipo sì, sì. 10 secondi, 20 secondi, massimo un minuto a traccia, quindi c'è in un mix di 60 minuti 60 minuti 300 pezzi 300 pezzi sì, sì. Insomma era un po' negli anni 90 era un po' i King di questa roba qua, sì, sì, insieme ad altri, però insomma era almeno King Japan di quella roba. Sì, sì, assoluto. E questo è DJ Muro. Quindi insomma, per chi ora si vuole fare una cultura dei de mix di DJ Muro, ve li trovate tutti, ecco, qua. Ottima cultura, baby. Ciao. Si va andare a Duccino? Vai. Ci si sente lunedì prossimo, allora. Vai. I love you.